24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci alle 7:32 minuti, cari ascoltatori, con 24 mattino in diretta fino alle 9, e subito vi lancio il sondaggio che già potete votare su radio24.it. un po' in basso a destra trovate bianco o nero, o il sole24ore.com. Parliamo dell'Afghanistan. Nella notte italiana a luna c'è stato l'annuncio ufficiale di Barack Obama, che ha detto: ci vogliono più soldati, almeno 30.000 uomini, e ce ne saranno anche dall'Italia, pare 1.500, più soldati per vincere la guerra in Afghanistan. Siete d'accordo oppure no? Devo dire che state già votando e vi state spaccando letteralmente, 50 e 50. Votate su radio24.it, ne parleremo più tardi. Questa e anche altre notizie le trovate anche sui giornali. In primo piano. Anche se oggi i titoli sono tutti per il fuori onda. Il fuori onda ormai l'avete anche sentito, ma poi per chi non lo sapesse sono quelle parole dette a un microfono in una situazione pubblica, ma insomma senza sapere di essere registrati, e sono le fuori onda, in questo caso le parole di Gianfranco Fini, che era a un convegno lo scorso 6 novembre, parlava col procuratore capo di Pescara Trifuoggi. E che è successo? Beh, insomma, che ha detto delle parole su Berlusconi e che oggi sono il titolo di tutti i giornali. Fini, il fuori onda delle polemiche, il Corriere della Sera. Guardate, è un incredibile insomma, serie di titoli, ma variano, ma il tema è quello. Fini Berlusconi, resa dei conti per Repubblica. Fini mondo per l'unità con l'esplosione di una bomba atomica, messa il fungo della bomba atomica. Fini Berlusconi, scontro finale per la stampa. Fini si è tradito, chiarisca o si dimetta. Questo è il giornale. Fini ormai è fuori onda, Libero. Fini esonda, il Riformista. Fini PDL, alta tensione. Questo è il Messaggero. Fini capo dell'opposizione. Questo è il Fatto. Davvero, come vedete i titoli sono tutti per questo. Il Sole 24 Ore fa l'apertura economica, che poi vedremo, incentivi prorogati e ridotti, è la questione del settore auto. Ieri c'è stato un importante incontro tra il ministro Scajola e l'amministratore delegato della Fiat Marchionne. Ma insomma, l'ira di Berlusconi, chiarisca o non voglio più vederlo. Leggo dal Corriere della Sera: la tentazione è quella di chiedere le dimissioni, incredulo, ferito, umiliato, offeso, furioso. Beh, Fini lo sapete, ha detto tra l'altro in questo fuori onda: Berlusconi confonde il consenso popolare che ha con una sorta di immunità, confonde la leadership con la monarchia assoluta. Ha parlato anche del pentito Spatuzza, ormai celebre pentito Spatuzza, dicendo sono rivelazioni bomba, coinvolgono anche Nicola Mancino, poi ha chiamato Mancino per scusarsi. Insomma, questo è lo scenario, e Francesco Verderami, sempre sul Corriere, ci scrive un pezzo in cui il titolo è questo: il sospetto, ma è vero che ha incontrato Di Pietro? Questo sarebbe Fini. È vero che Fini ha incontrato Di Pietro? Perché a Berlusconi sono giunte strane voci di palazzo. Il premier ha visto materializzarsi la prova del complotto, di un disegno contro di lui che si compirebbe dopo le regionali. Con anche molti di AN che dicono: ma che gli ha fatto Berlusconi? Per esempio si chiedeva uno sconsolato Matteoli pensando a Fini. Insomma, la situazione è che il premier, secondo Verderami, avrebbe chiesto ai dirigenti del partito la testa di Fini, esplicitamente. Ha precisato su Mancino e non ha precisato sul mio conto. Lui non si può far scudo della sua carica per attaccarmi. C'è da dire che, come abbiamo sentito nel GR24, Fini ieri ha poi chiamato in diretta Ballarò dicendo: non ho niente da chiarire. Anche su Repubblica il Cavaliere chiede una punizione, Gianfranco dovrebbe dimettersi. Francesco Bei: di fatto ormai si è messo fuori dal PDL, ci si è messo da solo. Parole e considerazioni fatte con il procuratore Nicola Trifuoggi, che il Cavaliere considera inaccettabili. Ed è un po' ovunque questo il profilo degli scenari, insomma, di una resa dei conti o di un qualcosa che insomma si è definitivamente rotto dopo queste parole. Tanto che Mario Aiello, il notista politico del Messaggero, scrive a pagina 3: tra Re Silvio e Ocifin. Ebbene sì, OCIFIN, così secondo Mario Aiello ormai beffardamente i Berlusconis chiamano il guerrigliero comunista Fini. E manca solo per ora il terreno della battaglia elettorale. Ovviamente c'è poi anche un ricordo di quelli che sono i fuori onda storici, un po' su tutti i giornali li trovate, no? Cioè altre situazioni in cui persone che non pensavano di essere registrate sono state registrate e poi dopo è successo il patatrac. La questione politica però freme anche su un altro fronte, perché il Corriere della Sera per esempio mette delle parole di Bossi a pagina 5, le riportano anche altri giornali per la verità. Bossi, show su Padania e Cavaliere. Che ha fatto Bossi? È andato a una cena con Ernest Benachi Pasqual, che è sostanzialmente un esponente dell'ischierda repubblicana, la sinistra repubblicana, e in questa cena ha detto: Fini è un ex fascista, ora amico della sinistra. Berlusconi? Lo controlliamo bene noi della Lega. Insomma, due federalisti, metti due federalisti a cena, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, di più due autonomisti, ed ecco allora che insomma ci sono dichiarazioni interessanti. Il presidente catalano tenta di proseguire sull'argomento immigrati. Noi abbiamo una teoria dei diritti e dei doveri, e Bossi si toglie il toscano dalle labbra e dice: da noi prima vengono i doveri. Tra i diritti, riprende Benacca, da noi c'è il voto alle elezioni amministrative. Quando la Padania sarà diventata uno Stato nazionale, anche noi daremo loro il voto. Questa la risposta di Bossi. Tra l'altro, come detto, ha parlato anche Fini del pentito Spatuzza, ha citato il pentito Spatuzza. Oggi continuano rivelazioni, nuovi scenari sul tema mafia Berlusconi, mafia dell'Utri in questo caso, su pagina 4 di Repubblica, quella che sarebbe una nuova rivelazione di Ciancimino Junior, il figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo. Ciancimino Junior è il biglietto del boss. Dell'Utri parlò con Provenzano. Questa sarebbe il nuovo fronte. Massimo Ciancimino ha detto ieri ai magistrati, spiegando nei dettagli il senso di un biglietto dattiloscritto da Bernardo Provenzano e inviato a Don Vito Ciancimino. Caro ingegnere, scriveva Provenzano, ho ricevuto la ricetta. Ci dobbiamo incontrare nel solito posto al cimitero per chiarire alcune cose. Abbiamo parlato con il nostro amico senatore per quella questione. Hanno fatto una riunione e sono tutti d'accordo. Quell'amico senatore, secondo Massimo Ciancimino, sarebbe proprio Marcello Dell'Utri, anche se sulla stampa la versione è questa. Sarebbe Dell'Utri, anche se non ne ho la certezza assoluta. Questa è la versione di Ciancimino. La politica ieri si è animata però anche per un avviso di garanzia, un'indagine di Milano che, come abbiamo sentito anche in questo caso in GR24, ha coinvolto anche il presidente della regione Lombardia, Formigoni. Il Corriere lo mette in prima pagina: Formigoni e Moratti indagati per lo smog. C'è anche un editoriale molto puntuto di Vittorio Feltri in prima pagina del giornale. C'è la foto di Formigoni. Su Formigoni il veleno dei giudici. Ormai non riusciamo più neanche a stupirci. Arrivano sui nostri tavoli notizie talmente assurde da rasentare il ridicolo, scrive Vittorio Feltri. L'ultima in ordine di tempo sarebbe addirittura comica se non fossimo alle elezioni, vicini alle elezioni regionali. Il governatore della Lombardia Formigoni, il sindaco e presidente della provincia di Milano Moratti e Podestà hanno ricevuto avvisi di garanzia per lo smog. Non stiamo scherzando, si tratta davvero di smog, del quale essi sono considerati responsabili e ne dovranno rispondere, presumiamo, in tribunale. Qual è la vicenda? Sul Corriere della Sera, dossier a volte tenuti nascosti, come l'ultimo del comune, che rivelano e rilevano in città un'area infestata come nelle tangenziali, studi che certificano morti e ricoveri riconducibili allo smog, limiti dell'Unione Europea ogni volta superati. Questi sono i motivi dell'iscrizione al registro degli indagati, appunto, del presidente della regione, della provincia e il sindaco di Milano. Un'iscrizione di assoluta ed esclusiva garanzia, un'indagine che nasce da due esposti del CODACONS, il comitato dei consumatori, tanto che, scrive il Corriere, la montagna ha partorito il topolino. No, non è il Big One, quell'esplosione deflagrante che politici romani e milanesi si sussurrano nell'orecchio da settimane dopo l'arresto di Giuseppe Grossi e della moglie di Giancarlo Abelli, che è un assessore regionale, per la bonifica di Santa Giulia, un'indagine che arriva a lambire alcuni assessori della giunta Formigoni. Ma non è il grande terremoto. Appena si è saputo ieri che era in arrivo un avviso di garanzia nei confronti di Formigoni, i telefoni sono andati in tilt. Politici non solo hanno intasato i centralini, eccitazione alle stelle. Ma è vero che Formigoni è stato indagato per la questione delle bonifiche? Buoni, alt, fermi. È una questione di smog, di polveri sottili, sottili, sottilissime, quasi invisibili. Tanto che, scrive Maurizio Giannattasio, addirittura il segretario lombardo di Rifondazione Comunista, Ugo Boghetta, colto da un impeto di entusiasmo mediatico, ha lanciato un comunicato che resterà negli annali. Siamo di fronte a un'altra Tangentopoli, ha dichiarato trionfante, perché pensava che l'inchiesta, sperava che l'inchiesta nella quale era stato coinvolto Formigoni fosse un'altra, e invece è una vicenda di smog. Questo è quello che bolle in pentola alla politica. Lasciamo la politica per andare all'economia. Prendo in mano il Sole 24 Ore. Come detto, la prima pagina, il titolo di prima pagina è su incentivi prorogati e ridotti, anche se voglio partire da quello che sempre trovate in prima pagina: i dati sulla disoccupazione. I disoccupati salgono a quota 2 milioni ai massimi dal 2004. Questo è quello che ha certificato l'Istat, lo trovate a pagina 3, insomma, l'analisi, la congiuntura economica. I disoccupati, scrive Rossella Bocciarelli, erano pari a 2 milioni e 4 mila persone in ottobre 2009, 39 mila in più rispetto al mese precedente, 236 mila in più rispetto all'ottobre 2008. Come conseguenza, il tasso di disoccupazione in Italia si porta all'8%, è un aumento di un punto percentuale rispetto all'ottobre del 2008, ma rispetto per esempio alla media europea, dove il tasso di disoccupazione è del 9,3%, o di Eurolandia, dove è del 9,8%, l'Italia è sotto, insomma ancora sotto. Certo, non è che c'è da brindare, però il ministro Sacconi dice non è un dato che si può chiamare positivo in assoluto, ma inferiore rispetto a quello medio dell'Unione Europea. Però c'è un commento molto interessante di Carlo Della Ringa, l'analisi su questi dati: il peggioramento è contenuto ma va a danno dei giovani. Così scrive il professor Della Ringa. Si registra effettivamente una diminuzione dell'occupazione, un aumento della disoccupazione, ma non è una novità, era ampiamente scontato. Si pensava anche che le statistiche avrebbero presentato un peggioramento diciamo analogo a quello dell'Europa, invece non è andata così. Però ciò che sorprende negativamente, scrive Della Ringa, è il deciso balzo in avanti compiuto dalla disoccupazione giovanile. Il tasso di disoccupazione dei giovani compresi tra i 15 e i 24 anni è aumentato di ben 4,5 punti percentuali, portandosi a sfiorare il 27%, vale a dire che più di un giovane su quattro è disoccupato. Si tratta in primo luogo di un pericoloso spreco di risorse. L'altro tema economico che trovate è quello dell'auto, come detto è l'apertura, incentivi prorogati e ridotti. Carmine Fotina scrive: exit strategy per l'auto, incentivi soft nel 2010. Perché? Perché è previsto da parte del governo, dopo l'incontro ieri Scajola-Marchionne, la possibilità di nuovi eco incentivi per il 2010, anche se in forma più soft. Quello che invece è un po' lo stop abbastanza definitivo è per Termini Imerese. Dura poco meno di un'ora l'incontro tra Scajola e il numero uno della Fiat, e alla fine, scrive Fotina, vengono gelate le già tenue speranze dei lavoratori di Termini Imerese. Lo stabilimento siciliano produrrà auto fino al 2011, dopodiché l'area industriale dovrà essere riconvertita in una nuova produzione non ancora individuata. Tanto che il manifesto ci fa la prima pagina. È la foto di alcuni operai che stanno producendo all'interno di un'azienda un'auto. Minimi Termini. Minimi Termini è sia per Termini Imerese, ma anche Minimi Termini sui disoccupati in Italia, che superano i 2 milioni. Dunque il manifesto si concentra sulla situazione, insomma, crisi sulla situazione lavoro. In primo piano. Saltano i tagli alle poltrone locali. Io, insomma, ieri avevo detto che con grande entusiasmo si aspettava questa possibilità in finanziaria di tagliare, cominciare a sfrondare un po' i tagli, a sfrondare un po' le poltrone della politica e i costi. Ci racconta invece Dino Pesole che, insomma, nei giudizi di inammissibilità di alcuni emendamenti in finanziaria al momento sono stati bocciati, salvo riformulazione, cosa che non è esclusa, dello stesso emendamento, l'intero pacchetto Calderoli, che anticipa in finanziaria il codice delle autonomie con annessi tagli, aggiunte e consigli negli enti locali. E dunque, per ora, accantonato il progetto. Trovate molto dell'Afghanistan, anche se il discorso di Obama è arrivato in tarda serata, nella notte, ma si sapeva, insomma, l'annuncio di 30.000 soldati in più per vincere la guerra in Afghanistan. 10.000 saranno chiesti agli alleati, 1.500 all'Italia, secondo indiscrezioni. L'Italia ha già detto che probabilmente glieli darà. Tra l'altro, questo è il nostro sondaggio, ne parleremo alle 8.30. Che ne pensate? È giusto mandare più truppe per combattere i talebani? Qualcuno dice Obama fa come ha fatto Bush sull'Iraq. E qualcun altro dice, ma come, il Nobel per la pace? E ne parleremo alle 8.30. Convivenze, tradito il patto di cittadinanza. Voglio andare da Avvenire a raccontare quello che in realtà è raccontato anche da altri giornali, Il Giornale per esempio, non solo. Una vicenda che coinvolge Bologna, o meglio la regione Emilia-Romagna. Che cosa è successo? C'è allo studio una legge che sostanzialmente pone sullo stesso piano singoli individui, famiglie, convivenze nell'accesso dei servizi pubblici locali. Questo ha nella regione Emilia-Romagna. Allora l'arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra, ha preso carta e penna e ha scritto alla regione una lettera dicendo: fermate quella legge. Quella legge non va bene, e quella legge sostanzialmente, scrive il cardinale, appellandosi alla responsabilità degli amministratori, non dovete compiere atti che possono far diminuire la stima, soprattutto nella coscienza delle nuove generazioni. Si tratterebbe di un attentato alle clausole fondamentali del patto di cittadinanza. Avvenire ci fa appunto una pagina, il titolo è questo: convivenze, tradito il patto di cittadinanza, Caffarra, errore mettere sullo stesso piano matrimonio e unioni. E tra l'altro il cardinale Caffarra conclude anche questa lettera dicendo: attenzione, io voglio rispettare l'autorità degli amministratori regionali, ma vi possono essere leggi gravemente ingiuste, come sarebbe questo comma se venisse approvato, che non meritano di essere rispettate. Una sorta quasi di disobbedienza civile, insomma, a dire, visto che questa legge non è secondo noi assolutamente giusta. Rimanendo sempre su Avvenire, ma c'è anche su Corriere, Repubblica, ma Avvenire da ampio risalto, un'altra pagina, un'altra decisione interessante, molto popolare, discussa anche in Italia, non solo, che arriva dalla Germania. Berlino, i giudici chiudono i negozi alla domenica. È un'annosa questione. I magistrati di Karlsruhe hanno detto sì alla richiesta dei vertici della Chiesa cattolica e luterana, che da 3 anni presentavano ricorsi per chiedere sostanzialmente di chiudere alla domenica i negozi. Perché? Perché è la giornata del riposo, è la giornata anche da concedere alla tradizione religiosa. Anche su Repubblica, Germania, stop ai negozi aperti di domenica, una svolta della Corte Costituzionale, bisogna tutelare la tradizione religiosa ma anche il diritto al riposo. È tra l'altro qualcosa che da anni anche il Vaticano porta avanti, da almeno 3 anni, insomma, periodicamente il Vaticano dice andrebbero chiusi i negozi la domenica che è un giorno anche da consacrare a Dio, e che invece, insomma, è sempre più, si è mutato in un fine settimana, in un tempo libero anche un po' vuoto, dove si passa anche gran tempo nei centri commerciali. Voglio andare all'ultima segnalazione: danni al turismo, lite a Tellaro sui nonni in piazza. Tellaro, forse lo sapete, è uno splendido posto della Liguria. Il Corriere della Sera ne parla, ma anche approfonditamente ovviamente il Secolo XIX, il quotidiano di Genova. Sta arrivando, o è proposta, la nascita di una residenza per anziani a Tellaro, in questo borgo. E che succede? È nato un comitato per dire no alla casa di riposo. Perché? Perché la presenza degli anziani non sarebbe compatibile con il turismo. Il sindaco dice: è razzismo estetico, sono inorridito, ma ci sono un comitato di contrari, un no che unisce destra e sinistra. Al posto dei ristoranti è stata messa la mensa, ora le ambulanze, ora le carrozzine. E ovviamente chi è contro questa casa di riposo comunque dice non abbiamo nulla contro gli anziani, ma insomma chiaramente la polemica a Tellaro divampa su questo tema. Ci fermiamo qui. Afghanistan, giusto mandare truppe, 30.000 truppe come dice Obama per combattere i talebani, sì o no? Alle 8 e 18 minuti, eccoci con 24 Mattino per parlare di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Ciao Alessandro, buongiorno. Eccoci qua, stavo guardando qua. In TV, c'era Di Pietro assonnatissimo. Cioè, non sapeva di essere inquadrato e mi fermo qui ieri perché sera ormai era a Ballarò, era andata a dormire tardissimo, ha fatto tutto un giro per studi televisivi. Ma allora, come fa di solito peraltro. Oggi. Senza polemica, non lo vorrei specificare qua. Onda fuori onda, è sempre meglio essere chiari sul proprio pensiero. Non ti sta ascoltando perché è in TV in questo momento, ma riferiremo. Ma sai, tu sai che i politici hanno molti radar. Parliamo di taxi? Va bene. Ne prendi spesso? Vai a Roma? Ti capita? Ma no, sei sempre ne prendo qua. Pochi, che domande ti faccio pure io la mattina presto. Allora, è una notizia di qualche giorno fa, ci ha incuriosito parecchio. Si chiama il nuovo servizio di cui parliamo oggi, Taxi Now. È stato lanciato dall'URI, l'Unione Radio Taxi d'Italia. Oggi cerchiamo di capire come funziona, da dove viene questa innovazione tecnologica, a cosa serve. E tra l'altro parliamo di Roma e la scelta di far partire questo servizio in questa città, indubbiamente immaginiamo non sia casuale, visto che la nostra capitale è una grande metropoli, ma è anche la città dove negli ultimi anni, anche Alessandro in passato ne aveva parlato spesso nelle sue precedenti trasmissioni, si sono consumate battaglie enormi fra l'amministrazione pubblica e i tassisti, basti ricordare quelle con l'ex sindaco Veltroni, in genere sempre semplificando molto sul tema dell'aumento delle licenze, ma anche sulla qualità dei servizi, visto gli enormi flussi turistici che ogni anno interessano la città eterna. E allora cos'è Taxi Now? Come funziona anche agli utenti? Insomma, spieghiamo come si scarica questa applicazione, come si fa a chiamare il taxi con questa applicazione. Loreno Bittarelli è presidente dell'URI, l'Unione dei Radio Taxi d'Italia, ma anche presidente della cooperativa romana 3570. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci spieghi un po' come funziona questo servizio, come possiamo, come utenti dei taxi di Milano, scaricarlo sul nostro telefono, perché è proprio un servizio a chiamata vocale che passa attraverso il nostro cellulare, Bittarelli, giusto? Esatto, diciamo, si può scaricare l'applicazione su tutti i cellulari di ultima generazione. Comunque la lista dei terminali supportati è sul sito taxinow.it, si può visionare. TaxiNow è un esclusivo sistema di riconoscimento vocale che rende più facile chiamare il taxi e permette di ovviare al problema dell'attesa che i clienti alcune volte devono affrontare per richiedere il servizio. TaxiNow permette infatti di generare in maniera automatica la richiesta di un taxi saltando il call center, risparmiando costi e tempi di attesa. Per scaricare l'applicazione basta inviare un SMS con il testo taxi, la parola taxi scritta, al numero 48 25 33 e si riceverà sul proprio cellulare un SMS autoinstallante che seguendo una procedura guidata ci porterà ad avere l'applicazione disponibile sul desktop del nostro telefonino. Ecco, è tutto finalizzato, come dicevamo, adesso terminiamo Bittarelli a migliorare il nostro rapporto di chiamata con il tassista naturalmente, ma non è che scaricando questa applicazione intanto ci troviamo un rigonfiamento, come dire, della bolletta improvviso? No, assolutamente no, perché il costo della chiamata è, cioè, un tetto massimo di un euro in ogni condizione con ogni operatore telefonico, quindi diciamo c'è un limite massimo che per adesso è di un euro, ma quando l'estensione dell'applicazione sarà disponibile anche per gli iPhone, quindi dalla fine di dicembre, il costo si abbasserà moltissimo, saremo intorno ai 10-20 centesimi il costo della chiamata. Sapete benissimo che chiamare un taxi dal cellulare nelle ore di punta a volte può insomma costare molto. Questo tra l'altro è un'altra delle battaglie delle associazioni dei consumatori insieme a quelle che stanno facendo contro i tassisti di Roma, poi magari se ci abbiamo tempo Bittarelli ci andiamo anche, perché loro proprio contestano la questione del costo di chiamata, no? Perché teoricamente si paga per un disservizio, più tempo ci vuole al taxi a raggiungere la persona che l'ha chiamato più si paga, e questo è effettivamente un paradosso, no? Quindi qui si può anche limitare il tempo di raggiungimento dell'utente che chiama il servizio, secondo lei? Allora, il tempo di raggiungimento del cliente da parte del taxi è una variabile che varia a seconda della distanza del taxi più vicino per arrivare all'indirizzo del cliente, quindi è indipendente dal fatto del sistema di chiamata. Sistema di chiamata, Taxi Now, questo fa risparmiare nel costo della telefonata e soprattutto accelera i tempi di risposta per la ricerca del taxi, evitando le lunghe noiose attese al telefono. Ho trovato sul Corriere della Sera un titolo che ha enfatizzato molto la vostra iniziativa, il primo sistema al mondo, addirittura, se io non ricordo male, già qualcosa del genere è stato sperimentato a Padova, solo che i tassisti di Padova non aderiscono a Duri, quindi lì c'è una cosa diversa. Detto questo, è partito anche a Milano però qualcosa del genere, a Bologna, a Firenze. Qual è la vera rivoluzione romana, Bittarelli? Romana, che noi siamo stati i primi, diciamo, a lanciare questa applicazione in esclusiva mondiale e in anteprima mondiale. Questo software, diciamo, è stato testato in una cooperativa di Padova, che è molto più piccola della nostra, per fare i test, diciamo, le prove iniziali, e dopodiché è stata sviluppata sulla nostra centrale, che è più complessa, perché deve essere valido questo software. Ovvio. Per ogni condizione. Roma ha dei numeri diversi, certo. Dopodiché sarà estesa, credo che sia già attiva a Milano, poi ci sarà Genova, Firenze e Bologna, e via via tutte le città che fanno parte dell'URI. A Milano, per esempio, con il 6969, a Bologna con la CAT Bologna, ricordo, così tanto magari gli utenti possono andare anche a curiosare nella propria città, a Firenze con Socota e Cotafi, che saranno, immagino, le cooperative che gestiscono il servizio taxi. Senta, l'obiettivo della vostra iniziativa, leggevo, è ovviamente di rivoluzionare in chiave positiva la percezione che l'opinione pubblica ha dei tassisti, no? Lo dicevamo anche all'inizio. Certo. Che percezione hanno i cittadini dei tassisti di Roma? Ma credo che gli utenti, tutto sommato, buona, perché hanno il contatto diretto con il tassista. Chi non usa il taxi è un po' meno buona, perché siamo stati dipinti, purtroppo, anche a seguito delle battaglie degli ultimi anni, in maniera negativa, e quindi noi vorremmo andare a recuperare questo rapporto con l'utenza, facendogli capire che noi tassisti siamo capaci anche di realizzare delle cose diciamo sempre più vicino alle esigenze del cliente. Ci sono anche altri servizi che abbiamo lanciato, tra cui per me è molto significativo le taxi, che va sempre nella direzione di evitare incomprensioni nel pagamento con i tassisti. È un sistema che ti consente, grazie alla tecnologia dell'e-commerce abbinata al nostro mondo, di acquistare una corsa a priori, prima di prendere il taxi. Quindi c'è un sistema che calcola automaticamente, inserendo l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di arrivo, il costo della corsa, e così si può ottenere sicuramente la massima trasparenza e certezza sul prezzo. Questo servizio è rivolto soprattutto ai turisti, che spesso e volentieri, quando arrivano nei luoghi di sbarco, diciamo, alla nostra città, hanno dei problemi, o perlomeno possono avere delle comprensioni. Infatti, ne abbiamo parlato, i famosi giapponesi, che non solo capitano in ristoranti, che non si comportano molto bene, qualche volta incappano anche in tassisti non molto onesti. Bittarelli, solamente un'ultima cosa in 10 secondi: avete già riscontrato che molti utenti hanno scaricato questa nuova applicazione, o ancora troppo presto per dirlo? Ancora troppo presto, abbiamo visto alcune centinaia nella giornata di ieri, ma ancora se ne deve parlare, quindi anche grazie al vostro aiuto spero che aumentino i numeri in maniera importante nelle prossime settimane. L'importante è che voi non ve ne approfittiate per aumentare le tariffe. Anche grazie. No. Va bene, grazie a Loreno Bittarelli, presidente dell'URI e presidente della cooperativa romana 3570, quindi insomma tassisti sempre più tecnologici, Alessandro, hai visto. Ed SMS invece, che dovrebbero essere sempre meno costosi nel nostro paese, grazie a questa pronuncia della Gcom dei giorni scorsi. Lo scopriremo a Salvadanaio. Alle 12, ma certo. Alle 8:34 minuti, ben ritrovati le notizie in primo piano. 30.000 soldati in più in Afghanistan, ma con la promessa di un ritiro graduale a partire dal luglio 2011. Questa è la strategia annunciata nella notte dal presidente americano Obama, e ne parleremo tra pochissimo. In Italia una tempesta politica per il fuori onda, in cui il presidente della Camera Fini parla di Berlusconi e che definisce, lo confonde, il consenso con l'immunità. Ma io non ho nulla da chiarire e non cambio opinione, precisa in serata Fini telefonando alla trasmissione Ballarò. A Milano sono indagati il presidente della regione Lombardia, il sindaco Moratti e il presidente della provincia Podestà. L'inchiesta riguarda l'inquinamento dell'aria in seguito a una denuncia del Codacons. In conclusione, una decisione che viene dalla Germania. Dal 2010 negozi chiusi alla domenica a Berlino. Lo hanno stabilito i magistrati accogliendo la richiesta della Chiesa Cattolica e Luterana. La domenica, hanno detto i giudici, deve essere un giorno di riposo e di elevazione spirituale. E allora, alle 8:35 minuti parliamo appunto di Afghanistan nel nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. L'annuncio è avvenuto nella notte, 30.000 truppe in più in Afghanistan perché bisogna combattere i talebani, ma anche inizieremo a ritirarci dal luglio del 2011. Le parole di Barack Obama ve le facciamo sentire in lingua, giusto per chi le apprezza. Commander in chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan. After 18 months, our troops will begin to come home. Insomma, 30.000 truppe in più, entro 18 mesi inizierà il graduale ritiro. Siete d'accordo con questa strategia? Qualcuno ha detto Obama fa come Bush in Iraq, più truppe. Voglio salutare intanto dagli Stati Uniti, il fuso orario ci aiuta, lo troviamo in California, il professore politologo Edward Lutwak. Professore, buongiorno, buonasera per lei. Buonanotte. Autore, tra l'altro, voglio ricordare, del libro La grande strategia dell'impero bizantino, che è uscito proprio da poco, edito da Rizzoli. Professor Lutwak, Giuliano Ferrara sul Foglio oggi dice: cari miei, guardate che Obama non è il Nobel della pace, Obama è il presidente degli Stati Uniti. Lei è d'accordo? Obama non è stato eletto per vincere in Afghanistan, è stato eletto per ridurre lo sforzo americano in tutti questi conflitti e per ristorare la capacità economica. E appunto questo si farebbe con una strategia bizantina di diplomazia, di mettere questi differenti elementi uno contro l'altro a fare un bel equilibrio. Ma invece Obama ha deciso di fare la via romana, che non è bizantina, che non è la diplomazia, ma è di mandare costose forze armate. Il costo previsto di 30.000 soldati in più, costo addizionale, è di circa 30 miliardi all'anno, miliardi di dollari all'anno. Questo non è una decisione che riflette la realtà economica del paese. 30 miliardi di dollari. Lei ha detto ha scelto la via romana, quella delle più truppe. Dunque ha sbagliato, secondo lei? Professore, ha sbagliato, secondo lei, a mandare più truppe? Sì, io credo... No, ho sbagliato. Ho sbagliato strategicamente, visto le risorse americane, visto la bassa priorità dell'Afghanistan. Politicamente lui ha fatto l'intera campagna contro Bush dicendo che Bush aveva sbagliato perché aveva fatto lo sforzo in Iraq e ha tenuto poche truppe in Afghanistan, non sufficiente per vincere. Il calcolo di Bush era evidentemente che in Afghanistan non si vince, tanto vale lasciare la situazione sotto controllo con un minimo di truppe e fare lo sforzo in Iraq, dove in teoria si può vincere. Una questione però, dice, prettamente economica. Le chiedo anche questo, glielo chiedo strettamente, insomma, perché la polemica ci sarà. Il Nobel per la pace, insomma, il fatto che Obama sia Nobel per la pace e mandi 30.000 truppe, secondo lei sono due decisioni in conflitto oppure non c'entra niente? Guarda, cinque norvegesi che non hanno fatto niente di grande nella vita, sono loro che decidono chi dare il premio Nobel. L'hanno dato perché Obama non era Bush, gli hanno dato questo premio alla pace. Prenderlo sul serio è un grave errore. Questi signori non sono più da prendere sul serio, non perché l'hanno dato. Hanno fatto cose come dare... Questo premio è stato dato a Kofi Annan, cioè il principale responsabile di Ruanda, genocidio dei Watutsi di Ruanda. È un premio così che non dobbiamo più considerare, no? Non è come il premio Nobel per la chimica, dove qualcuno deve aver fatto qualcosa di sostantivo, di aver trovato una nuova molecola, una nuova tecnica di analisi. Lei dice non dovrebbe essere considerato. Tra l'altro, non prendiamolo sul serio. Professore, la stanno ascoltando, voglio salutare Paolo Ferrero, buongiorno, che è il segretario nazionale di Fondazione Comunista. Buongiorno, buongiorno. Una posizione sicuramente, diciamo, ben ideologicamente contraria alla guerra, e sappiamo, e tra poco le chiedo il parere. Voglio salutare anche il nostro Alberto Negri. Alberto, ben ritrovato, uno che l'Afghanistan l'ha conosciuto e lo conosce, non so se palmo a palmo, forse no, è dire esagerato, ma ci sono tante zone che non hai visto, ma lo conosce molto bene. Ciao Alberto. Ti chiedo che ne pensi, è la strategia giusta? Più truppe, più soldati? Ma mi sembra che Obama sì abbia intrapreso un'escalation militare, ma si sia posto degli obiettivi molto più limitati rispetto a prima. In primo luogo parla di distruggere Al-Qaeda, ma non di sconfiggere i talebani. Parla di renderli più inefficaci, di diminuire la loro capacità di poter rovesciare un governo afghano. Quindi non si parla più di sconfiggere una guerriglia, ma si ammette implicitamente che un certo livello di guerriglia e di stabilità continuerà a rimanere. Poi non si parla più di national building, cioè di ricostruzione dello Stato afghano. Ci si pone poi soprattutto l'obiettivo dell'inizio di un ritiro nel 2011 che potrebbe terminare nel 2013, e questo forse potrebbe essere anche un errore tattico, perché la guerriglia proprio su questo conta. Che cosa dicono poi in fondo i talebani? Voi occidentali avete l'orologio e noi abbiamo il tempo. Prima o poi dice ve ne andrete, mentre l'Afghanistan e noi rimaniamo qua. Io, Paolo Ferrero, voi quando già eravate al governo ogni volta c'erano dei grattacapi quando bisognava decidere se rifinanziare la missione. Ora si parla di nuove truppe, voi non siete più al governo, nella maggioranza. Lei che ne pensa? È tutto sbagliato? Bisognerebbe andarsene dall'Afghanistan? Ma io credo che cose dette sin qui dagli altri due interlocutori dimostrano che la scelta del Presidente degli Stati Uniti è completamente sbagliata, perché appunto sceglie l'aumento delle truppe invece che la diplomazia su un terreno in cui non ha vinto mai nessuno, né gli occidentali né i sovietici quando invasero mai nessuno, perché la conformazione del terreno e la tipologia di aggregazione sociale di tipo tribale rende pressoché impossibile vincere una guerra, salvo lo sterminio di mezza la popolazione. Secondo, l'annuncio del ritiro, mentre si fa l'annuncio delle truppe, serve all'interno, ma è del tutto evidente che avrà come unico effetto il fatto che Al-Qaeda, che cosa farà? Si metterà da un lato per un paio d'anni, evitando troppe perdite, e poi semplicemente, se questi se ne vanno, sarà a posto, avendo vinto, non avendo fatto un accordo. Per cui io penso che questa strategia è semplicemente disastrosa, perché convince la popolazione civile che gli occidentali sono contro di loro, e nel mondo musulmano è un segnale in generale dell'Occidente contro i musulmani, e in più non è efficace a sconfiggere le frange terroriste. Per questo io continuo a pensare, lei lo definirà credo ideologico, dal mio punto di vista si tratta di un elemento di buon senso, che bisognerebbe ritirare le truppe e aprire un dialogo con i nemici, cioè con quelli con cui va fatta. Cioè con i talebani? La pace. Sì, esattamente. Anche perché lei si vede benissimo che questa guerra sta ampliando il perimetro del conflitto. Oramai il Pakistan è a metà, diciamo, su questo versante. Quindi questa guerra è un focolaio di produzione di estremismo, di terrorismo, di odi, che produce delle generazioni di odi, come Gaza. Questi bisogna trattare per ridurre questi focolai che producono odi e disastri. Questa è la mia posizione. Allora, 800 24 00 24 se volete intervenire. C'è da dire che per ora vi state dividendo, il 51% di voi dice sì, siamo d'accordo con mandare più truppe, siamo d'accordo, il 49% no, insomma siete divisi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Quello che chiediamo, appunto, 30.000 truppe in più mandate, annunciate da Obama, che dice anche ci ritireremo a partire dal 2011 dall'Afghanistan. Siete d'accordo? Professor Lutwak, io tornerei per un attimo da lei. Ferrero ha detto via le truppe e dialoghiamo con i talebani. Che ne pensa? Insomma, anche lei è critico con la decisione di Obama, ma da un punto di vista diverso, forse da una posizione diversa rispetto a quella del segretario di Fondazione Comune. Quali azioni dei talebani? E di fare cose come distruggere le scuole per il crimine di insegnare le ragazze. Ora, con i talebani non vale la pena di parlare. Al-Qaeda come organizzazione non esiste più, ci sono 4 o 6 leaders che si nascondono in varie caverne e buchi. Questi no. L'alternativa è di mandare truppe in Afghanistan e di armare i Tajik, Hazara e Uzbek e di invitarli a difendersi contro i loro nemici. Attenzione, armare i Tajik, gli Uzbek. L'alternativa è mandare truppe americane. Sì, l'alternativa è restare, che gli afghani trovino il proprio equilibrio, perché i talebani è un movimento religioso, però è basato sull'etnia Pathan. I Pathans, i quali riflettono i valori dei Pathans, cioè la soppressione delle donne e così via. Io non mi preoccupo affatto di istigare i musulmani. Gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno difeso i musulmani di Bosnia, hanno difeso, sono intervenuti per difendere i musulmani di Kosovo, hanno cercato di moderare il genocidio di musulmani e Darfur fatto dal musulmano governo sudanese. Quindi gli americani vanno in giro a aiutare i musulmani in giro per il mondo e poi questi musulmani dicono: ah no, voi siete contro di noi. Quando una bomba di fanatici musulmani, che succede ogni giorno in Pakistan o in Iraq, uccide 150 musulmani, non si dice niente. Infatti, questo è anche un altro fattore che non è interessante. No, ma è molto interessante la sua anche opinione. La cosa che è interessante è l'alternativa. È prima di tutto al governo del Tagikistan, Uzbekistan, i governi della Russia, della Federazione Russa, che non possono tollerare un Afghanistan dominato dai talebani. Diplomazia vuol dire di invitarli loro, di mandare loro i soldati, di mandare loro lo sforzo, perché noi siamo, gli Stati Uniti sono a 13.000 miglia lì, lontani, mentre questi sono lì. Sono lì, avrebbero loro lo interesse. Allora, due ascoltatori, poi sono da Alberto Negri. Michele da Roma, che ne pensa? Buongiorno. Buongiorno. D'accordo, contrario con Obama? Sono favorevole alla scelta di Obama, decisamente favorevole. Tuttavia ho ascoltato con molta attenzione sia l'analisi del segretario Ferrero che quella del professor Lutwak. Per quanto riguarda il segretario Ferrero, è sicuramente una valida ipotesi quella di dialogare, sicuramente. Però intanto è dimostrato che con questa gente per dialogare occorre anche avere delle truppe in campo, perché altrimenti non capiscono ragione. Si dialoga con mitra in mano, insomma, le dice Michele. Vabbè, Carlo da Firenze, buongiorno, grazie Michele. Sì, buongiorno. Che ne pensa? Ma io senta, sono contrarissimo, anzi le direi, sono amareggiato e deluso del comportamento di Obama. Sto Nobel per la pace, Sto Nobel per la pace, gli fa timore a questo punto. Forse sono d'accordo con chi dice che va rivisto anche il valore di questo premio, di questo attestato che viene dato. Però la cosa importante è che in un momento così di crisi economica andare a spendere tutti quei miliardi per una guerra che ha dimostrato che non porterà nessun risultato, È una gravità. Mannaggia, ci ha mandato qui, è arrivato qui con la figlia che esibiva il simbolo della pace sulla maglietta, ha preso il Nobel per la pace e poi zac, 30.000 truppe. Alberto Negri, professor Lutwak dice no, dialogo con i talebani no, Ferrero dice dialogo con i talebani sì, Lutwak dice le popolazioni, i paesi a fianco più interessati, i tagiki, gli uzbeki, sappiamo poi che sono tutte etnie rappresentate in Afghanistan, intervengano loro che magari gli interessa più che a noi. Ma dunque, prima di tutto vi faccio un esempio concreto. Vi parlo della valle di Musai, che è a 20 km dal centro di Kabul. In quella vallata c'erano prima gli italiani e in settembre c'è stato il trasferimento di poteri della sicurezza agli afghani. Questa vallata è lunga 30 km e in tutto ci sono 90 poliziotti afghani che mantengono il cosiddetto ordine. Dalla valle di Logar, che è a sud di Kabul, arrivano puntualmente gli attacchi della guerriglia. Quindi anche quando si parla di trasferimento di poteri della sicurezza, penso che il tempo necessario a Obama e agli americani per avere delle forze afghane in grado di mantenere un minimo di controllo del territorio sia molto più lungo di quello di un anno e mezzo tracciato dal presidente americano ieri. Poi, quando si parla di trattare con qualcuno, bisogna sapere su che cosa negoziare. Allora, trattare con i talebani, come certamente dice Lutwak, vuol dire accettare una versione dell'Islam non moderata. Ma attenzione, in Afghanistan una versione dell'Islam non moderata ce l'hanno quasi tutti. Non ce l'hanno solo i talebani, ma anche i famosi tagiki e gli uzbeki che abbiamo citato prima. Non è così semplice armare tagiki e uzbeki, perché in Afghanistan costoro non hanno mai governato il paese in secoli di storia. Quindi bisogna avere a che fare comunque con una società che ha una componente pashtun del 40% e soprattutto una componente tribale molto forte. Poi trattare con i talebani significa trattare anche con qualcun altro, prima di tutto con il Pakistan, che comunque li ha sostenuti per anni, con l'Arabia Saudita, con gli Emirati, da cui arrivano finanziamenti e sostegni economici, con l'Iran stesso, che in qualche modo si è adoperato in questi anni per utilizzarli nei confronti e di strumentalizzarli nei confronti delle truppe. Insomma, capire se tutto questo ne vale la pena. Io mi devo fermare qui ringraziando Paolo Ferrero, Edward Lutwak, che lasciamo andare a dormire, la ringrazio molto, da San Francisco, ricordo il suo libro La grande strategia dell'impero bizantino, edito da Rizzoli, il nostro Alberto Negri. Ci fermiamo qui, votate, siete d'accordo o contrari alla decisione di Obama, più truppe in Afghanistan? Per ora siete sempre divisi, 50%. Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia, ci ritroviamo domattina.